You're listening to Rock FM. Backstage Fest. Il rock and roll come nessuno ve l'ha mai raccontato. Allora, sono Chuck Bird e sono qui per farvi avere il vostro personale Backstage Pass. A raccontarvi cose che non trovate nelle biografie autorizzate, che non vedrete su MTV. Cose che forse anche gli stessi protagonisti hanno dimenticato da tempo, come del mestiere che faceva Lou Reed prima di diventare la rockstar che oggi tutti ammiriamo. Vi siete mai chiesti come viva una rockstar prima di diventare rockstar? Beh, la maggior parte se la passa piuttosto maluccio. La loro vita è in sala prove, cercando di mettere insieme il pranzo con la cena, facendo lavori improbabili, di quelli che possono mollare per poter andare in tour senza avere troppi rimorsi. Il vecchio Lou Reed, per esempio, posava per dei giornalacci settimanali del tipo scandalistico, pieni di balle inventate per solleticare la morbosa curiosità dei gonzi. Pensate che una volta uscì un articolo corredato da una sua foto. Il reportage raccontava di un maniaco sessuale omicida che aveva ucciso 14 bambini. L'articolo affermava che Lou Reed, o meglio il serial killer a cui Lou Reed aveva prestato la faccia, aveva registrato tutto quello che succedeva durante i suoi delitti e che riascoltava i nastri nascosto in un fienile. Poi naturalmente Lou Reed si vendicò di tutto e di tutti, obbligandoci ad ascoltare Metal Machine Music, il più incomprensibile album della storia del rock. Quello sì che era un vero delitto, ma contro le nostre orecchie. Thank you.